Mio marito non era un lazzarone, ma i suoi consiglieri, non fosse stato per il re Massimiliano, si sarebbero alleati volentieri con i Valois e non con noi castigliani. La nobiltà nelle Fiandre era molto più influente che da noi e io non avevo bisogno di conoscere bene il mondo per capire che quei signori sapevano che, essendo i miei genitori tanto lontani da me, avrebbero finito per avere più potere su di me. Non appena Filippo e io ci stabilimmo a Bruxelles, condivisero le posizioni strategiche della mia casa con il mio personale di fiducia, in modo che raramente riuscivo a stare da sola con la mia gente. A quei tempi, però, nell'intimità dei nostri amplessi, il cui fuoco non dava segni di smorzarsi, Filippo metteva a tacere le mie rimostranze con carezze e regali favolosi. Quasi tutti i pomeriggi cavalcavamo nei boschi intorno al palazzo. E il nostro divertimento consisteva nel distanziare i nobili della nostra comitiva galoppando a briglia sciolta. Una volta soli, eravamo soliti smontare da cavallo nei villaggi vicini, passeggiare per le strade, girare per i mercati come due paesani riccamente vestiti. A Filippo piaceva imprigionarmi in un angolo e baciarmi a lungo davanti agli occhi e alla pazienza dei passanti. Tenendoci per mano, visitammo più di una volta le botteghe in cui si forgiavano spade per i tornei o si tessevano begli arazzi. I maestri ci invitavano a bere vino e ci raccontavano le vicissitudini delle loro umili vite. Dopo queste fughe, ritornavamo agli intrighi di palazzo, agli sguardi di diffidenza tra i suoi cortigiani e i miei, alle larvate lotte di potere che si ingaggiavano attorno a noi, alle quali però, quando rimanevamo soli, ci sottraevamo. Allora era come se gli occhi dell'uno, fissi in quelli dell'altra, creassero uno spazio immune da tutto ciò che non era l'immenso amore che ci faceva scorrere il sangue nel corpo come un fiume in piena. Il nostro amore, tuttavia, era assediato dagli interessi di Stato e l'innocenza del mio innamoramento patì la prima grande delusione la sera in cui arrivò la nefasta notizia della morte di mio fratello Giovanni. Ero stata informata da mia cognata Margherita e dai nobili della corte e delle fastose cerimonie con cui si erano celebrate le loro nozze. Come me e Filippo, Giovanni e Margherita si erano innamorati al primo sguardo. Giovanni però non aveva la mia costituzione e la passione propria degli austriaci lo consumò come una candela. Questo almeno si disse, poiché non lasciava il talamo nuziale e si abbandonava a Margherita fino a sbiancare. Il corpo non aveva potuto proteggersi dalle forti febbri che lo avevano colpito a Salamanca, mentre visitava la città con la novella sposa. Dopo soli 7 mesi di matrimonio, il mio povero fratello morì tra le braccia di nostro padre, il 6 ottobre 1497. Non avrei mai immaginato che potesse accadere niente di simile, soprattutto perché Margherita mi aveva scritto da poco che aspettava un figlio. Quella morte mi abbatté. Era un giorno di cielo grigio, come sono di solito i giorni d'autunno a Bruxelles. La consapevolezza che Filippo mi aveva allontanato da tutto quello che amavo fece aumentare le mie lacrime. Anzi, fu proprio in quel momento che mi resi conto dell'isolamento in cui mi trovavo. Avevo permesso che congedasse quasi tutta la mia corte spagnola. Non potevo nemmeno condividere il mio dolore con i miei. A parte Beatrice e Anna de Viamonte, in quella stanza nessuno dispiaceva veramente della morte di Giovanni. Dalla poltrona davanti al camino in cui ero seduta li sentivo bisbigliare animatamente. Piangendo Giovanni mi pentii di non aver scritto a mia madre. Non so in quale momento mi alzai e scacciai gridando i fiamminghi dalla mia stanza, perché non volevo sentire il suono della loro lingua gutturale né vedere la loro finta compassione. Chiamarono Filippo, che arrivò come un energumeno e senza pensare al mio dolore. Mi disse che dovevo chiamare l'ambasciatore Manrique e comunicargli che, essendo morto Giovanni, chiedevamo che ci concedesse immediatamente il titolo di principi delle Asturie. Lui e io dovevamo reclamare il diritto alla corona. Era pazzo, gli dissi. Non solo mia sorella Isabella era in vita, ma sua sorella stessa era incinta. Mi disse che ero io la pazza, che non si rendeva conto che quella era l'opportunità di cui avevamo bisogno per essere considerati eredi al trono di Castiglia e di Aragona. Non ricordo che cosa mi disse ancora, perché a un certo momento le sue parole furono per me solo suoni lontani, colpi sordi. Vidi il suo volto, che mai avrei pensato potesse essermi sgradito, come quello di un uccello rapace posato sul petto di mio fratello, pronto a squartare i suoi poveri resti. turandomi le orecchie. Uscii di corsa da quella stanza dicendogli che facesse quel che voleva. Non me ne importava niente, si sarebbe scontrato con i miei genitori. E fu quello che accadde. Reagirono di fronte alla sua irriverenza, e poiché il figlio di Margherita e di Giovanni era nato morto, elessero come erede al trono Isabella, che dopo la morte del principe Alfonso aveva sposato Manuel, il re del Portogallo. Dovetti trovare un equilibrio di fronte a mio marito perché il rifiuto dei miei genitori mi pesò molto, anche se ne avevo compreso immediatamente le ragioni. Filippo era stato goffo e aggressivo nelle sue pretese, ma mettendolo da parte, i miei genitori mi lasciavano sanguinante a nuotare in un mare pieno di squali. Era l'anniversario del mio matrimonio. Cominciavo già a preoccuparmi perché il fare tanto l'amore non aveva dato il suo frutto, ma finalmente, nei primi mesi dell'anno, constatai di essere incinta. Filippo ne fu molto felice e io non stavo in me dalla gioia. Il mio corpo si ingrossava, la pelle del ventre era un tamburo attraversato da sotterranei e sottili fiumi azzurri. Sdraiata sul letto, con le mani sulla luna tonda che si agitava per volontà propria, riuscivo a passare ore a immaginare come sarebbe stata la creatura che si rivelava tanto energica dentro di me. Il mio raccoglimento non mi impediva però di accorgermi di certe insolite assenze di Filippo. Notando il mio pessimo umore, Madame de Halévin e Beatrice tentarono di consolarmi, assicurandomi che era un'antica usanza dei mariti quella di non mettere in pericolo negli ultimi mesi la salute delle donne incinte chiedendo di soddisfare i loro desideri. Anche tua madre, Giovanna, ha avuto la stessa esperienza. In periodi come questi sono stati concepiti i figli illegittimi di tuo padre, che devi sapere sono stati educati a corte perché la regina Isabella, d'anima buona e comprensiva qual è, così aveva disposto. Devi cercare di capirlo, figlia mia. Mi ammonì anche frate Tomas de Matienzo, l'inviato dei miei genitori che faceva parte ora della mia corte. No, che non lo capisco, gli dissi guardandolo furiosa, sentendo che le mie guance ardevano per l'aumento della temperatura provocato dalla rabbia che avevo dentro. Voi uomini vi perdonate tutto. Potrei trovare anch'io il modo di fare dei figli illegittimi. La mia insolenza la ripetei quella sera stessa in pubblico durante la cena e davanti a Filippo stesso. Se frate Tomas si allarmò per le mie parole, Filippo si intimorì per la minaccia tanto da non lasciarmi più sola. Quella sera e molte altre ancora trovammo la maniera di accoppiarci dietro la montagna della mia gravidanza. Finché Dio mi dava vita e salute, gli dissi, né per quella né per nessun'altra gravidanza avrebbe dovuto andare a cercare altrove chi gli calmasse la fame che così bene sapevo calmargli io. La mia prima figlia, Eleonora, nacque il 15 novembre del 1498 a Louvain. Isabeau Ohain, una levatrice di Lier, mi assistette durante il parto. Io ero molto nervosa. Pochi mesi prima, il 23 agosto, mia sorella Isabella era morta di parto. Mia madre mi aveva scritto una lettera sconsolata. Isabella era morta tra le sue braccia un'ora dopo aver partorito. Sapevo quanto mia madre la amasse. In meno di un anno i suoi due figli maggiori non c'erano più. Non capivo come fosse possibile. E la povera Margherita. La sua gravidanza si era conclusa in un mare di sangue. Non era un bambino, ma una massa amorfa, quella che albergava nel suo ventre. Il figlio neonato di Isabella, il piccolo principe Michele, fu nominato dai miei genitori erede della corona di Castiglia e di Aragona, e le Cortes lo confermarono. Durante il travaglio io vedevo i volti di Giovanni e di Isabella fluttuare sul mio letto. Fortunatamente Isabeau non solo aveva mani delicate e abili, ma anche la presenza di spirito e l'energia per scuotermi per le spalle e per farmi vincere il panico che mi prese nel momento in cui dovevo spingere fuori il bambino. Mai, hai capito? Mai morirai di parto, mi gridò in fiammingo, scrollandomi perché smettessi di coprirmi il viso con le mani. Fu un ordine, uno scongiuro, non so, ma da quel momento non dubitai più di me stessa o della mia salute nel momento del parto. Il corpo mi si sgonfiò ed Eleonora nacque senza difficoltà. Piansi quando Isabeau mi mise la bambina tra le braccia, compresi quanto doveva essere stato terribile per mia madre il dolore recente. Desiderai che potesse essere lì. Sapevo che se fosse stata assieme a me sarei come rinata. Eleonora era una trastamara. Filippo arrivò più tardi quando, secondo l'usanza della Borgogna, ero stata agghindata per ricevere i saluti della corte in una stanza d'onore, su un letto coperto da un baldacchino verde, sotto un copriletto dorato bordato di ermellino. Anche lui si emozionò, prendendo in braccio Eleonora, ma guardò a me con distacco, come se la bambina mi avesse fatto diventare un'altra Giovanna. Quando mi venne il latte, però, l'attrattiva dei miei seni tanto cresciuti e il vedermi allattare lo trasformarono in un bambino curioso. Passava le mattine con Eleonora e con me sul letto. Filippo e io la guardavamo affascinati, come istupiditi. Eleonora non perdeva tempo, si attaccava ai capezzoli con godimento e mentre succhiava il latte io avevo la sensazione che le sue gengive mi mordessero anche il ventre. Era strano, era come se le mie viscere volessero uscire da me per avvolgerla e proteggerla di nuovo, forse a causa del grande amore che quella fragile creatura mi ispirava. Dissi a Filippo che non volevo nutrici per le mie figlie e figli, avrei allattato io anche se non era un'usanza della corte. Non cercò di dissuadermi, anzi sviluppò una vera passione per stare al mio fianco in quelle occasioni. Gli piaceva moltissimo vedere l'espressione dei nobili quando io mi aprivo il corpetto. Ridevamo poi, commentando le reazioni, e lui mi incitava a mostrare il seno. È così bello, Giovanna. Voglio che tutti invidino la mia fortuna. Voglio vedere i miei cortigiani desiderarti terribilmente e doverlo nascondere. È molto divertente. A un mese dalla nascita di Eleonora si presentò nella mia stanza, portandomi in regalo un medaglione contornato di perle. Poco dopo, vestito di giallo, che era il mio colore, organizzò un torneo in mio onore. La prova della mia fertilità suscitò effetti magici tra i fiamminghi della mia corte. Nonostante la dipendenza economica in cui vivevo mi pesasse e limitasse le possibilità di sovrintendere alla mia casa, io mi sentivo felice e amata. Con la maternità il mio corpo si fece più maturo e la focosa passione delle nostre notti diventò voluttuosa e insaziabile. Spesso l'alba ci sorprendeva l'uno sull'altra. Per quanto facessimo, la nostra sete non si estingueva mai. E così concepì un'altra volta. Verso il termine della mia gravidanza, la città di Gand offrì una generosa donazione di 5.000 fiorini per venire scelta come culla di nostro figlio e Filippo accettò. Mio marito pensava così di stringere legami con quella città. Per il mio trasferimento, poiché mancava poco al parto, Filippo commissionò la costruzione di due carrozze lussuosissime, con l'interno tappezzato di velluto, e chiese ai monaci dell'abbazia di Anshan che mi dessero in prestito la loro più prestigiosa reliquia, l'anello che si diceva avesse portato all'anulare la Vergine Maria durante la nascita di Gesù. Furono tante le sue attenzioni che il disagio per quel viaggio, che all'inizio mi era sembrato poco più di una transazione commerciale a mie spese, svanì completamente. Dopo esserci sistemati nel castello di Gand, Filippo invitò una grande quantità di amici a festeggiare nel palazzo il 24 febbraio, vigilia di San Matteo. All'arrivo degli invitati fui contagiata dall'atmosfera festiva. Per quanto fossi grossa e pesante, non avevo perduto né la vivacità né l'agilità. Cominciai a suonare il clavicordo e a mostrare agli ospiti i passi di una danza spagnola. Mentre ballavo, sentii delle fitte al basso ventre. Corsi nella mia stanza assieme a Beatrice, pensando che dovessi usare il gabinetto, dato che era un dolore simile, ma subito sentii l'acqua che annuncia il parto scorrermi per le gambe. Chiamai Beatrice, che corse come una pazza a chiedere aiuto. Mi sdraiai sul letto, cercando di controllare l'uscita del bambino, la cui testa sentivo già affacciarsi tra le gambe. Beatrice arrivò quando lui era già sul letto, da poco espulso dal mio ventre. Arrivarono Madame de Halleven, Maria Manuela, Anna de Viamonte e Filippo, pallido e sconvolto. Arrivò la levatrice, che tagliò il cordone ombelicale e terminò di pulire il bambino e di assistermi. La notizia che era un maschio si sparse per ogni dove, come portata da stormi di colombi viaggiatori. Di lì a poco tutta la città fu sommersa dai fuochi d'artificio sparati dal campanile della chiesa di San Nicola e dal suono delle campane. Mi adagiai sui cuscini. Avevo avuto paura che il parto non avesse l'esito felice del precedente. Avevo temuto di morire, di deludere Filippo con un'altra femmina. Invece non avevo quasi sentito dolore. Ordinai che mi portassero Eleonora. Le mostrai la faccia raggrinzita e seria del suo fratellino. Non capiva molto, ma volevo tenerla accanto a me perché non si sentisse sminuita. Quanto differentemente il mondo celebrava l'arrivo di un maschio. Carlo! disse Filippo alzando il figlio orgoglioso. Si chiamerà Carlo come mio nonno. Avevo dato alla luce Carlo I di Spagna e V di Germania, il re sul cui regno non sarebbe mai tramontato il sole, il più potente monarca d'Europa, mio figlio, che non ebbe mai pietà di me. Il mio destino subì un ribaltamento il 20 luglio del 1500. Dopo soli 23 mesi di vita, moriva il principe Michele, il figlio di mia sorella Isabella, l'erede designato della corona di Castiglia e Aragona. Ai miei genitori non rimase altra soluzione che quella di nominare Filippo e me principi delle Asturie. Da terza in linea di successione, passai ad essere la futura regina di Spagna. Non avevo mai pensato di diventare regina, né lo avevo desiderato. Quando mi ero innamorata di Filippo, avevo creduto che la vita mi avesse benedetta, ponendo la felicità nel destino che i miei genitori avevano scelto per me. Avevo pensato di poter essere semplicemente l'arciduchessa di Borgogna. Mi ero proposta di trovare nelle mie funzioni di personaggio minore, l'unica di noi sorelle che non avrebbe sposato un re, la felicità di una vita senza ulteriori preoccupazioni e obblighi. Avevo capito che, per ironia, imponendomi di sposare Filippo, i miei genitori avevano dato al mio spirito la libertà di cui nessun altro dei loro figli e figlie era stato chiamato a godere. Feci un uso forse smodato di questa libertà. Credetti di dimostrare che non avevo bisogno di loro, che le Fiandre, libertine e dolci, si adattavano meglio alla mia personalità. Pensai di essermi liberata dello zelo religioso che, come una grigia corazza, attanagliava la nostra esistenza, imponendo rigidità e intolleranza. Ricordavo bene le scene dolorose e commoventi degli ebrei che si allontanavano in tristi carovane, senza meta, quando era stata decisa la loro espulsione. Non comprendevo come mai i miei genitori si definissero giusti e poi con un taglio recidessero le radici di tutta quella gente, obbligandoli a trovare un'altra terra a cui dare il nome di patria. Mia sorella Isabella fu contagiata da questo fanatismo e si era rifiutata di sposare Manuel del Portogallo finché questi non si fosse impegnato a espellere gli ebrei anche dal suo regno. Nelle Fiandre, invece, la tolleranza è la norma e la religione non obnubila l'intelletto delle persone, non le obbliga a mortificare la vita per averne un'altra dopo la morte. Volli dimostrare ai miei genitori che mi avevano destinata all'incertezza, che ero capace di trovare più certezze in quei regni la cui bellezza e prodigalità erano oggetto di biasimo che nella devozione religiosa. Sollevata, mi allontanai dalle preghiere e dalle devozioni in cui si trinceravano con non poca arroganza i miei compatrioti. Decisi di non scrivere a mia madre perché nel farlo mi vedevo forzata a renderle conto e ad accettare che le dovevo sottomissione. Infine, spinta da un sentimento di rivalsa, mi allontanai emotivamente dalla mia patria e dalla mia famiglia. E forse fu un errore. Soffro dei momenti in cui mi insuperbisco e penso che posso bastare del tutto a me stessa. Divento vendicativa e altezzosa. La rabbia nascosta in me e di cui ignoro l'origine affiora alla superficie e mi sommerge. Mi ribello all'obbedienza e all'idea che siano altri a decidere della mia vita. E in questo stato d'animo faccio d'impulso cose di cui poi mi pento. E tuttavia non posso recitare il ruolo sottomesso che mi si assegna senza sentirmi rimescolare dentro. Sono una principessa del Rinascimento. Ho letto i classici, ho discusso di filosofia con Erasmo da Rotterdam, il quale, come mi aveva confidato il milanese Pietro Martire d'Anghiera, tutore di mio fratello, era rimasto stupefatto dalla mia intelligenza. Parlo con scioltezza il latino, il francese, l'italiano e l'inglese. Amo i poemi cavallereschi di Mallory e di Matteo Boiardo, Tristano e Isotta di von Strasburg è uno dei miei libri preferiti. L'incisore Dürer mi mostra le sue immagini possenti e mi parla del genio del Bosch. Mi sento fortunata a vivere in un tempo in cui, mentre si scoprono terre nuove e rotte imprevedibili, l'Europa trova nel suo passato classico l'amore per la forma e per la filosofia, e in ogni dove si commenta la genialità degli artisti che stanno cambiando l'aspetto di Roma. Michelangelo, Raffaello, Botticelli. Ammiro delle Fiandre l'impegno e il piacere di elevare alla bellezza le cose quotidiane, dall'arte orafa dei piatti e degli utensili di cui facciamo uso nei banchetti, fino alla morbidezza dei tessuti con cui ci vestiamo, e ai libri di preghiere con le loro delicate e colorate miniature. Non penso che le mie sottane tolgano qualcosa al mio talento. Mia madre mi ha insegnato che non è necessario che le donne si sottomettano. Lei aveva fatto ricamare sul suo stendardo l'affermazione di uguaglianza con mio padre. Tanto monta, monta tanto. Sembra però che la concezione in base alla quale noi donne siamo capaci di molto più che procreare l'abbia riservata alla sola se stessa. Solo a se stessa ha attribuito un ruolo maschile. Ma usando tutte quelle figlie come moneta di scambio per stabilire alleanze e accrescere il suo potere. Ha agito come se l'unica donna esentata dalla sottomissione al marito fosse lei, mentre ha fornito a tutti i miei fratelli una dote considerevole, nel mio caso ha deciso di farne a meno, lasciandomi così in balia dei gretti consiglieri di Filippo che mi odiavano perché ero spagnola. Sono stata la più misera delle principesse, dato che non possedevo nemmeno il denaro corrente per mantenere i miei leali cortigiani. A uno se ne sono andati tutti. E non ho potuto essere ospitale neanche con i messi dei miei genitori. Non mi erano rimasti che lacrime e pianti per lagnarmi con Filippo quando non aveva voluto nemmeno offrire loro di sedere alla nostra tavola. D'altro canto, credo che mia madre abbia dato eccessivo credito ai suoi confessori e che veda con diffidenza la passione che mi lega a mio marito. Nessuno mi riferisce le voci, ma io so ascoltare quello che mi porta il vento. So che Torquemada, Cisneros e quel gruppo di prelati che circonda mia madre come uno stormo di corvi si inquieta per il mio amore per la vita, per i miei slanci, per quello che chiamano l'influsso nocivo delle fiandre. Che io sia tanto attaccata al mio corpo sembra loro una pericolosa debolezza. Ipocriti. Mentre diffidano di me perché godo di ciò che è lecito in un matrimonio, fingono di non vedere gli scandali della loro chiesa e assecondano e consigliano i miei genitori, tanto cattolici, a erigersi a difensori di Papa Alessandro VI con la motivazione che è necessario far fronte comune contro la Francia. Puah! Ignorano forse le storie che si raccontano dei Borgia? Ignorano che Giulia Farnese, l'amante del Papa, vive a pochi metri dal suo palazzo? E che dire dei suoi tre figli illegittimi che lui si è impegnato a nominare vescovi? Mia cugina Giovanna di Aragona, sposata con il duca di Amalfi, mi scrive da Napoli raccontandomi delle orgie di Cesare Borgia. Costui getta delle castagne a terra e le fa raccogliere gattoni e nude dalle donne che lo accompagnano. E queste non sono concubine, ma dame di alto lignaggio. E nessuno lo biasima. L'amore che porto a mio marito invece è diventato la pietra dello scandalo. È vero che nelle Fiandre gli spagnoli non sono visti con simpatia. Non c'è alcun dubbio che siano più leali alla Francia e che questa ha la priorità nei loro cuori, ma come fargliene una colpa? I racconti di mia cognata Margherita, di quello che ha visto nei 2 anni passati in Spagna, hanno contribuito a far crescere l'avversione che i fiamminghi provano nei confronti dei nostri metodi barbari. Margherita si trovava a Granada per visitare il favoloso palazzo moresco dell'Alhambra il giorno in cui l'arcivescovo Cisneros, l'asceta, il fanatico confessore di mia madre, in uno slancio di zelo religioso, aveva dato l'ordine di bruciare tutti i libri arabi delle biblioteche della città, libri di agricoltura, di matematica, di scienze. 800 anni di civiltà araba in Spagna arsero quella sera. Il prelato decise che soltanto 300 libri dovevano salvarsi dalle fiamme. La gente, raccontava Margherita, aveva nascosto molti dei manoscritti. Ricordavo bene di aver visitato con Beatrice Galindo la biblioteca dell'Alhambra dopo la conquista di Granada. Ma il resto era andato perduto. Come risultato di quelle notti d'inverno passate attorno al fuoco ad ascoltare le storie di Margherita sulle atrocità degli autodafè e sulla fanatica crudeltà di Torquemada, Filippo cominciò a punirmi, quasi che facendolo si vendicasse della complicità dei miei genitori in quei crimini contro l'umanità.